Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Per la prima volta mi è capitato di incontrare un singolare tipo di viaggiatore. Devo dire, ho parlato un po' con lui prima di iniziare a entrare nel vivo di quella che è la sua storia. Mi aveva colpito il senso di sufficienza e di leggerezza allo stesso tempo con cui guardava noi viaggiatori, come se lui fosse stato forzato, obbligato o non avesse la necessità di stare seduto in un treno per poter viaggiare, perché ha iniziato a farmi capire con sottintesi, con dico ma non dico, come potrei dirti ma non ti posso dire, che lui in realtà viaggia in altro modo. Si vorrebbe dire che viaggia col pensiero, no, sarebbe riduttivo, e me lo faccio spiegare quindi meglio. Lui fa il viaggio astrale, che sembra una cosa da film, una cosa da fantascienza, ma più lo ascolto e più mi convinco che ciò possa essere possibile. È uno specifico funzionamento, diciamo che sono degli istinti che sono nati quando ero giovane. Giovane vuol dire verso i 18 anni, quando mi trovavo nel letto immobile, un po' come raccontava quel vecchio ascoltatore di cui ho sentito la trasmissione tempo fa. Mi trovavo immobile nel letto e non riuscivo ad uscire da questa situazione, una situazione che faceva paura perché ero completamente paralizzato. L'unico modo che avevo per distogliermi da questa paralisi era riuscire a toccare con la lingua il cuscino del letto. E piano piano ho cercato di capire cosa mi stesse succedendo. Perché l'unica parte che controllavi era la lingua? Sì, l'unica parte che controllavo era il respiro. Quindi il respiro era quello che riuscivo a domare e automaticamente con il respiro c'era il collegamento con l'unico muscolo di cui avevo ancora il potere, ed era la lingua, e quindi tutte le volte che riuscivo poi a toccare la lingua a toccare il cuscino con la lingua, riuscivo a togliermi da questa situazione molto... Diciamo, ritornavi in te, riprendevi possesso delle tue facoltà? Sì, ritornavo in me, quindi tutti i miei muscoli, ritornavo il controllo dei muscoli, quindi sotto un certo punto di vista tiravo un sospiro di sollievo perché non è come uscire da una prigione, la prigione del mio corpo. E quindi ho voluto capire cosa mi stesse succedendo, perché era una cosa innaturale, quindi mi dava anche preoccupazione. Addirittura ci sono state ricordo dei periodi dove non riuscivo a prendere sonno, perché solamente l'idea di affrontare questa spiacevole situazione era forte, quindi mi bloccava anche il sonno durante la notte. E poi come ho fatto a capire che cosa mi sta succedendo? L'ho capito perché mi trovavo in spiaggia a 18 anni, ecco, quindi un periodo dove sei completamente libero da pensieri, sei proprio nel cuore della tua giovinezza e non assediato dai, diciamo, le problematiche e le responsabilità di tutti i giorni. In spiaggia conosco una persona con cui dopo poco tempo è nato un feeling, e questo feeling ci ha portato a parlare anche di queste cose, e lui mi ha cominciato che aveva lo stesso tipo di esperienza aveva avuto che sì, ha avuto lo stesso tipo di esperienza, e allora mi cominciò a spiegare di questi viaggi astrali. Piano piano mi avvicinai all'argomento. Lui mi consigliò un libro che ora ricordo il titolo, mi ricordo ancora il titolo, era di Roger Monroe, I miei viaggi fuori dal corpo. Acquistai questo libro e cominciai un po' ad acquisire quelle nozioni base per sconfiggere un po', per capire e quindi per praticare questi viaggi. E quindi ho cominciato a controllarmi, a controllare quello che mi stava succedendo, perché diciamo che la paura era quella che bloccava tutto. Vabbè, cominci a avere consapevolezza che questa tua paresi in realtà non era altro che, se non sbaglio, il preludio di una possibile attività di uscita dal corpo. Esattamente, esattamente. Quindi io imparai questa tecnica, mi provocavo volontariamente un formicolio che partiva dai piedi e piano piano saliva e inondava tutto il corpo di questa forte, diciamo, sensazione, un formicolio come quando... E come fai a provocarlo autonomamente, da solo? Concentrandoti? Concentrandomi, sì. Diciamo che ognuno ha una propria tecnica. E parte dai piedi, Parte dai piedi, piano piano sale, prende le ginocchia, il bacino, e a un certo punto, quando mi sentivo completamente coinvolto da questo formicolio fino ad arrivare alla testa, mi lasciavo e mi abbandonavo. Mi abbandonavo al sonno, come se dovessi dormire. E in quel momento succedeva qualcosa di straordinario, di magico. Praticavo praticamente una torsione sul mio corpo, lasciando il mio corpo fisico nel letto e uscivi dal corpo. Acquisivo, esatto, il mio corpo astrale, chiamiamolo così, direttamente in quel momento. Ma tu lo percepivi un corpo, cioè percepivi te come nei film, che si vede un ectoplasma trasparente che esce dal... Esattamente. Ah, come nei film? Vedevo il mio corpo dormire e quindi io mi sollevavo. E quindi le prime volte è stato un trauma. Ma tu non avevi sensazione di fisicità, non avevi sensi? Assolutamente no, di fisicità no, anche perché commettevo un banalissimo errore. Il banalissimo errore era quello di muovermi e spostarmi, o voler spostarmi con questo corpo astrale, diciamo, che non era un corpo fisico, con lo stesso metodo con cui si sposta un corpo fisico. Quindi se dal mio letto volevo spostarmi per poi uscire nella camera o addirittura uscire poi all'esterno, io cercavo di muovere dei muscoli, ma dei muscoli che non avevo, e quindi non riuscivo a muovermi, non capivo come muovermi. Cercavo di attraversare le pareti, quindi uscire e scavalcare questa parete, questo muro che era composto dalle mura di casa, ma non riuscivo ad uscire. Quindi poi pian piano rimbalzavi sulle pareti. Rimbalzavo, non riuscivo a... E quindi poi ho imparato e ho capito che ovviamente non dovevo utilizzare i miei classici muscoli del corpo, dovevo solamente pensare di essere dall'altra parte. Nel momento stesso in cui pensavo di essere all'aldilà, io mi ci trovavo lì. È come un po' il discorso di volare, sì, di essere leggeri, di poter fare dei giri sopra. All'inizio mi muovevo nell'ambito dell'area conosciuta, cioè quindi mi trovavo sul tetto, mi trovavo a girare, a volteggiare, diciamo, nel mio quartiere, tanto per cominciare. Ecco, quello che è importante dire è che la situazione psicologica è una situazione psicologica molto, molto, molto lucida, ma alterata. Alterata si intende che tutte quelle che sono le paure, i timori, venivano meno. Cioè non avevi paura di niente, quindi era solo un'esperienza bella da godersi, diciamo. L'esperienza poi è stata... esperienze effettive, le prime esperienze forti sono state quando io ricordo che ai tempi avevo una ragazzina che in quel periodo ovviamente era in Sardegna, e ho cercato di raggiungerla, ho voluto raggiungerla. E sei passato sopra il mare, come hai fatto? Sono entrato in un tunnel pazzesco dove sentivo aria, dove sentivo suoni, vedevo queste luci, come fosse un tunnel, non so come posso spiegare. Un varco, spazio-temporale, nei film di fantascienza questo si vede, passi in un varco. Esattamente. Pensavo quindi fosse solo fantascienza, ecco, che ne so. Ma assolutamente, cioè proprio ho provato delle cose che ho visto nei film. Ecco, e quindi mi sono trovato dopo una decina di secondi, sentendo quest'aria che mi attraversava, mi sono trovato nella camera dove dormiva questa ragazza. Beh, è pericoloso comunque avere un fidanzato con questi poteri. È molto pericoloso, anche perché poi sai. Lei era lì, dormiva magari tranquilla. Lei dormiva tranquilla e io riconobbi una mia felpa che le diedi prima che lei partisse, e il giorno dopo, quando le telefonai. Quindi hai fatto la verifica, cioè non che non fosse un sogno. Tu avevi la mia felpa sul sito. Ma tu sei mai stato in quella stanza? È la prima volta che ci andavi? Io non sono mai stato, anche perché era un villaggio estivo. Quindi l'hai descritta e hai avuto la prova. Cioè, tu puoi prendere in giro chiunque, ma non te stesso. Quindi lo sai te, poi lo sai te, quindi non è che. Tu hai descritto la stanza e hai avuto la prova che ci sei stato veramente. Non ci sono santi. Esattamente. Dopodiché, sai, cioè, si formano alcune convinzioni. Cioè, pensi di avere un superpotere a questo punto? Scusa, ma la ragazza come gliel'hai spiegato? Come gliel'hai spiegato la ragazza? Ho visto la tua stanza. Sono passati tanti anni. Io l'ho spiegato, gli ho chiesto come fosse fatta la sua camera. Ah. E quindi non hai rivelato che tu avevi il superpotere? No, assolutamente. No, diciamo, fatto possiamo bene. Chiamarlo superpotere. Dopodiché, dopo questa esperienza, ho cominciato a prendere un po' di confidenza. E le prime cose che ricordo con molto piacere sono questi tentativi ma riusciti di viaggi sopra grandi città. Ecco, io mi riferisco sempre posso riferirmi a un film come Superman, quando Superman volava sopra New York. Ecco, la stessa esperienza, veramente essere presenti, lucidi in quel momento e volare sopra questi grattacieli è un'esperienza che ricordo ancora molto molto viva. Sono cose che cambiano un po' il modo di pensare, giustamente, e quindi ti rendono forti di un qualcosa in più che magari gli altri non sanno. Mais où va le monde? Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons si cruels? Où sont mes vrais amis? Pourquoi je me méfie? Qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices? Oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu importe si l'homme reste si cruel avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner, mettre son ego de côté. Pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère la plus totale? Donner ma confiance et mon cœur, pourquoi ça me fait si peur? Est-ce bien normal? Non, c'est pas normal. Mais où va le monde? Pourquoi chaque fois que je veux bien faire les choses, dire toujours de travers? Pourquoi les gens se mentent? Pourquoi les gens se trompent? Est-ce que toi aussi, des fois, tu te demandes pourquoi la vie est si compliquée? Surtout quand deux personnes s'aiment et qu'ils semblent être bien ensemble. Ça paraît si facile, alors comment ça se fait qu'à chaque fois ça finit en pleurs? Je n'en peux plus des histoires futiles, je n'en peux plus de tous ces bourreaux et de toutes ces victimes. L'homme se contredit à longueur de journée, il ne sait pas ce qu'il veut, c'est pour ça qu'on se fait du mal. Est-ce bien normal? Il y a des questions où je sais que je ne trouverai jamais la réponse. Il y a des choses auxquelles on ne peut rien faire, il faut sans doute s'en moquer, passer à travers. Et moi, je ne serai plus là, moi, je ne veux plus cacher ma vie avec des histoires qui finissent toujours en drame ou en cauchemar. Je ne veux plus voyer pour moi. Si avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Un luogo comune è un'opinione o un concetto la cui diffusione... Un po' di... meno impostato, un po' di emozione. Ma sì, un po' di brio, dai. La cui diffusione, ricorrenza o familiarità... che cos'è? Vabbè, non sei credibile, cos'è il Carnevale di Rio? Ne determinano l'ovvietà o l'immediata riconoscibilità. Senti, teatro qua, tutto profondo, no. Basta questa cosa che il teatro è noioso, eh. È un luogo comune. In letteratura è detto topos e indica il ricorrere di un tema in un autore o in un genere letterario o artistico. Vabbè, non t'arrabbiare. Off topic. Fuori dai luoghi comuni. Il sabato alle 22.30 e la domenica alle 14 su Radio 24. Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. E quindi da lì sono cominciate altre esperienze, ho provocato altre esperienze fino ad arrivare a provare a cimentarmi nello spazio. Anche lì ho provato esperienze straordinarie. Cioè nello spazio oltre la nostra atmosfera? Assolutamente sì, oltre la nostra atmosfera. Quindi tu diciamo, quindi... tu adesso sei nelle condizioni di poter organizzare, stimolare, effettuare un itinerario astrale secondo il tuo desiderio, vai dove vuoi. Allora, la verità è che purtroppo oggi non ho più la spensieratezza di un giovane di 18 o 20 anni e questo è quello che influisce su tutti noi. Quindi è legato all'adolescenza questa cosa qua? Non è legato all'adolescenza, ma quanto è pensiero, cioè il pensiero di una responsabilità, di una famiglia, di un lavoro e delle cose che... Deve avere la testa leggera per farlo. La testa leggera, infatti mi riferisco anche all'altro radioascoltatore che hai sentito l'altra volta di cui... Ma quello si pigliava l'utilizzo di sostanze. Ecco, queste sostanze, a mio parere, agiscono direttamente su determinate ghiandole che producono... Vabbè, quello è scientificamente provato, certo. Sì, ma io credo che queste sostanze comunque servano per distogliere e tranquillizzare e rilassare la mente, cioè farla per un momento dimenticare della vita terrena, di tutto quello che ti circonda, almeno questo è un mio pensiero, anche perché non ho mai avuto bisogno e non ne ho mai fatto uso. Quindi diciamo che sì, ho portato avanti queste esperienze, mi sono trovato più volte nello spazio. Vabbè, allora, raccontami i viaggi, vediamo un po'. Questo della fidanzata è stato il primo, mi sembra... Sì. Guidato consapevolmente, si è andata a sorvegliare la fidanzata. Poteva andarti anche male, però ma male no, perché in quella condizione la mente è tranquilla, tu sei sereno, libero, il tuo inconscio è stabile. Perché sì, se la trovavi paura... che non era sola, voglio vedere che facevi. Ah, ho capito. Quanto eri contento? È andata bene, nel senso che era tranquilla lei. E poi che altri viaggi hai fatto? I viaggi sono ripetuti tutti i giorni per un lungo periodo di tempo. Io ricordo che era una domenica di agosto, sì, e mio padre era in salotto a vedere il Gran Premio, io ero a letto a dormire, a fare le mie prove. Ricordo che una volta finito il Gran Premio sono tornato da mio padre, ho detto ha vinto, ma non ricordo chi, e lui mi dice ma sì, come fai a saperlo che eri di là? O se no controllavo, avevo un vecchio videoregistratore di quelli con l'orologio luminoso a LED, tipico degli anni 90, e controllavo l'orario. Per esempio, non so, uscivo per quei tot minuti e quando ritornavo poi controllavo l'orario e vedevo che corrispondeva esattamente all'ora che io ho visto durante durante il viaggio. Ecco, c'è una cosa da dire, che questi viaggi possono durare mezz'ora, 20 minuti, 10 minuti, ma il tempo è relativo perché pur avendo magari vissuto mezz'ora al di fuori del mio corpo, quando tornavo e controllavo questo famoso orologio vedevo che magari era passato solamente un minuto, quindi si perde anche la relatività del tempo. Quindi diciamo, paradossalmente è accelerato il viaggio? A te ti sembra di star fuori un'ora, invece stai un minuto? Esatto, sì, assolutamente sì. Ma può essere anche alterato al contrario, probabilmente, perché si perde proprio il discorso di una dimensione, di una regola sia di dimensione che di spazio che di tempo. Diciamo che è la nostra mente. Io sono convinto che la nostra mente possiede delle capacità straordinarie. Il problema è che, come si dice, ne usiamo solamente il 10%. Sì, altre esperienze che ti posso raccontare sono esperienze magari private, interne, in senso che magari mi ricordo di essermi trovato ad ascoltare una musica fantastica, straordinaria, dove riuscivo a selezionare ogni tipo di strumenti, dal giro di basso alla batteria alle tastiere, ma questo era tutto provocato dalla mia mente. Infatti io lucidamente mi stupivo, ma da dove arriva questa musica? La mia mente riusciva a creare una musica complessa. Io ricordo di... Quindi la producevi te la musica, non è che l'ascoltavi? Io producevo la musica, esatto, la mia mente produceva, cioè, la musica. O la raccoglievi in collocazioni che normalmente non percepiamo, come gli ultrasuoni cani, ecco, una cosa del genere. No, non credo. Io credo che la mia mente generava questa musica, e una musica anche molto complessa, dove io avevo il piacere addirittura di ascoltare una musica che stava in quel momento autoproducendo. Come posso dire, la nostra mente è straordinaria, che noi non la stimoliamo a sufficienza. Io ricordo anche di profumi intensi che ho provato, ma proprio, come posso spiegarmi, sentire proprio il profumo anche se non c'era niente intorno al mio letto che potesse profumare di qualcosa. La mia mente provocava il profumo, e molte volte i miei tentativi erano quelli di riuscire addirittura a mettere a fuoco le cose che vedevo durante questo viaggio. Cioè io mi fermavo e dicevo vediamo quanto riesco a mettere a fuoco questa tastiera di un computer, questo fiore, questa foglia. Quindi hai sperimentato parecchio, studiato? Ho avuto un bel periodo. Questo intenso, è tutto avvenuto in un periodo limitato alla tua vita comunque? Da ragazzo. Sì, ma lo potrei fare ancora. E oggi. Quando è l'ultima volta che hai viaggiato? Questa notte è successo qualcosa di particolare. Ma dove sei andato? Perché la notte, scusami, il pensiero stimola. Tu solamente ricordarti, solamente allenare, ricordare queste sensazioni, vieni stimolato, a prescindere dal fatto che riuscirei anche ad autoprovocarmelo. Cioè basta pensare intensamente quello... Ma scusa, io non capisco, se avessi questo potere starei tutte le sere a viaggiare invece che starmi a guardare la televisione. No, lo so, però questo è il problema. Il problema è che poi a un certo punto, non dico che ti stanchi, ma affronti delle paure che sono, e se mi piace troppo stare dall'altra parte, e se stando dall'altra parte poi perdo l'amore verso le cose che ho tutti i giorni, e però ho anche provato a sentire qualcuno che dall'altra parte Cioè tu sei entrato anche diciamo in aree proibite, cioè hai avuto esperienze, perché sai, uno viaggia, può andare ovunque, in posti dove era meglio non andare. No, ho cominciato a sentire che c'era qualcuno, che non ero solo. E da quel momento è come nei film, a un certo punto entrano e ci sono i demoni, queste cose qua, non lo so, penso. Sì, non so definire. Uno all'inizio gioca, poi alla fine viene fuori il mostro, ecco, quello fa. Assolutamente sì, quindi io appena ho cominciato a sentire, addirittura c'è stato un periodo dove mi sentivo tutte le notti tirato dalle gambe. Dall'elmo sentivo qualcuno che voleva tirarmi fuori, tutto. Vabbè, come Poltergeist, ti risucchia la televisione, cose del genere, cosa succede? Sì, guarda, allora, io sono convinto che i film sono assolutamente reali. Cioè, chi fa i film ha avuto esperienza o ha conosciuto gente che ha avuto esperienza? Assolutamente. Guarda, sì, perché corrisponde un po' troppo, capito? Ma guarda, io parto solamente dal pensare come il semplice Leonardo, semplice, il genio Leonardo da Vinci abbia potuto immaginare le cose che ha immaginato in quel tempo, ma anche i nostri, l'Asimov, la situazione che ha pensato a pianeti, a situazioni diciamo futuristiche, io credo che abbiano avuto la possibilità. Ma stanotte che hai fatto? Andiamo al punto, che hai fatto? Stanotte non è successo niente di particolare, non è che sono uscito dal corpo, ma durante un sogno vivo, molto vivo, è successo che in questo sogno ho sentito suonare con la mia soleria il mio telefono. Era la sveglia, hai messo la sveglia? No, a un certo punto dal sogno mi sono alzato fisicamente, non mi sono accorto dello stacco sogno-realtà. Senza formicolio, senza tutte quelle cose lì? No, senza niente. Mi sono trovato realmente a guardare il telefono e vedere che non stava suonando. Quindi c'è stato un collegamento sogno-realtà che non ha avuto nessun tipo di stacco. Tu stai giocando comunque con l'uscita dalle dimensioni e l'entrata in altre dimensioni. Hai cominciato per caso, ma ormai una volta aperte le porte è poi più facile passare. Molto più facile, anche c'è un discorso anche di controllo del sogno. Cioè io posso controllare, mi capita non sempre, ma controllare cosa fare. Sì, ma tu posso farti una domanda personale se vuoi, ma tu dormi solo spesso oppure... Sì. Cioè, Perché se ci fosse qualcuno vicino alla fine sarebbe più difficile. Sì, no, pur avendo una moglie e una famiglia, però io dormo solo perché... Saggissima soluzione. Perché prima si dorme meglio. Poi se sei uno russo non c'è chi ti dà le botte, chiaro. Anche questo, ma a prescindere da questo ho avuto esperienze purtroppo dove trovandomi con altre persone, quando mi succedevano questi... Cioè questi intemperanze intestinali, queste cose qua che sono imbarazzanti, questo. No, assolutamente, ho avuto episodi di uscita dal corpo dove magari... Cioè la persona ha detto, ma quanti siamo a letto? Non pensavo fosse una mucchiata, è così? Ecco, bravissimo, no, è che io... Ma tu cosa ti hanno detto che facevi mentre uscivi dal corpo? Cioè il corpo che faceva? No, ma nessuno vede niente, il problema è che molte volte io non voglio uscire, quindi per liberarmi da questa situazione, sì, posso anche magari gridare, usare la lingua, come ti dicevo, appoggiandola su... Certo, tu pensi, tu immagini, una poveretta quindi, che dorme vicino a te, o chiunque sia, chiunque sia, vedi a un certo punto uno che dorme, tira fuori sta lingua e lecca il cuscino, cioè rimane e urla, no, ti prego, lasciami stare, non entrerò nel tuo mondo. Esattamente. In and out, let's see with you. Sailing under the rain. The only color of my blues is made of dust and sand. Drifting, it's heavy than the same. Clouds pass me by, and I'm bound to take my time until I found you. Send me home to you before the harvest starts again. And if the light comes shining through, will you still recall my name? It's every day the same. Clouds pass me by, but I'm bound to take my time until I found you. I've been here and almost everywhere. I sailed the seven seas while you sat down on your chair. You've been good to me, have I been good to you? Lost in the ends of gravity, soon I'll get back to blue. Drifting, is every day the same? Clouds pass me by, and I'm bound to take my time. Clouds pass me by, and I'm bound to take my time until I find you. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Senti, mai fatto viaggi in posti che non conoscevi, per esempio? Dove sei stato? In posti che non conoscevo, guarda, appunto perché non li conoscevo non potrei nemmeno... Cioè con te tu, operetto, posso chiudere bottega? Guarda, ripeto, sono cose che purtroppo ricordo, sono tutti ricordi, però volendo stimolare ancora questo tipo di esperienza ce la potrei fare. Il problema è che nessuno oggi ha voglia di farlo, sarà il fatto che la vita di tutti i giorni veramente ci prende tutte le forze e quindi alla fine non si riesce più ad avere dei momenti per sé. Io sono convinto che tutte le persone possono fare queste cose, tanto è vero che se si va su internet, si viaggia un po', è il classico OBE, cioè out of the body experience, praticato da molte persone, come si può. Sì, però sai, le cose si leggono su internet, la metà sono cazzate, quindi uno non sì, sa mai. Sono cazzate, però qualcosa di vero c'è, nel senso che ho letto anche molti scrittori, con Hemingway compreso, per riuscire, hanno avuto queste esperienze. Ti ripeto prima, dal classico genio Leonardo, secondo me, ha avuto esperienze di questo tipo ed è riuscito magari ad arrivare a vedere cose di 500 anni dopo, di 1000 anni dopo, chissà, vabbè, 1000 no, sono troppi, però anche i nostri scrittori di fantascienza, secondo me, anche perché quel tunnel che ti raccontavo, esattamente quel tunnel che ho visto in alcuni film, telefilm. Io posso prendere come riferimento un film che si chiama Contact, dove l'attrice era Jodie Foster, non so se l'hai mai visto. Certo, sì. Quindi c'è questa macchina che diciamo sotto, dopo un invito dagli alieni di costruire una macchina per comunicare con la loro civiltà, è riuscita nell'impresa. E quindi ricordo che io non so se hai visto questo film, alla fine lei si trova in questo paradiso con tre soli e con delle lune, dove rincontra il padre. Ecco, sono questo viaggio che lei fa effettivamente rispecchia tanto un viaggio astrale, rispecchia tanto, assolutamente. Sì, ma sì, questa quindi... qua, solo per capire, adesso è una tua attività costante? Me lo racconti no. Come uno racconta, sai, sono stato a farmi una vacanza in Kenya, ecco, una cosa del genere. Cosa era molto frequente tanti anni fa, ora mi capita, qualche volta mi capita, e quindi magari mi faccio il mio giretto intorno alla casa, controllo se ci sono i ladri che entrano, che mi stanno, però finisce tutto lì. Quindi, però ripeto, volendo provocarlo ci riuscirei, però per un mese dovrei mettermi intensamente tutte le sere a desiderare di fare questo. Ma possiamo legare a questo anche un discorso di controllo della mente sul corpo. Ora non voglio dire cose che magari possono essere fraintese, soprattutto se magari rese pubbliche in maniera sbagliata. Io sono convinto anche di poter utilizzare queste energie per guarire il corpo da alcune da alcune lievi patologie che possono essere il mal di testa, piuttosto che magari, ecco, l'esperienza che l'ho avuto, che tanti anni fa mi è venuto un piccolo neo, sai, di quei nei brutti che non sono, ecco, e io per una settimana avevo preso appuntamento per togliere, infatti dicevo questo assolutamente è da togliere, e dopo una settimana di decisione che posizionavo la mano su questo neo e mi autoconvincevo che se ne doveva andar via, l'ho fatto sparire, tanto che sono arrivato a questa... magari una caccola disseccata, che ne so, sicuro, ma, che ma può anche darsi, ci mancherebbe, però sai, mi capitava magari di uscire, io andavo molto spesso in discoteca e mi capitava di tornare alle 4 e poi alle 7 alzarmi per andare a scuola, e molte volte mi riusciva a provocare in mezz'ora un riposo pazzesco, perché io chiedevo alla mia mente di sistemare il mio corpo, di metterlo in ordine e di farlo riposare. In mezz'ora lo facevo riposare 10 ore, nel senso che poi mi sollevavo dal letto come se avessi dormito una notte intera. Sono cose che bisogna praticare tutti i giorni. Sono quanti anni hai? Oggi purtroppo ne ho 47. Ah, purtroppo, quindi... sti cazzi, ci vorrei avere io, ci avevo 20 anni fa, fammi capire. Cioè, ma ancora fai in tempo a praticare un po' questa roba, cioè nel senso che... No, poi... perché non lo faccio più, io ti sto raccontando. Ah, non c'è voglia oggi più. Di... No, non... sì, ti sto raccontando oggi delle mie esperienze. No, perché bello, scusa, io sto sempre in treno, pensate, bene stare a casa e viaggio. Ma fatico tanto a mantenere rapporti, relazioni così, ma me ne vado a spasso con la testa e non c'ho bisogno di nulla. Cioè... Eh no, perché poi saresti comunque molto solo. No, tanto sono solo anche adesso, non è che cambia molto. Sì, ma c'è comunque una solitudine, a meno che tu magari non voglia provare esperienze che ti portano in contatto con altre. Ecco, ma tu hai lambito altre realtà, cioè altre persone, cioè capivi che c'era qualcuno con cui potevi entrare in contatto? Sì, assolutamente sì, e lì dove un po' ho cercato di smettere di fare. Beh, cosa ti dava? L'ansia di qualcosa di ostile o qualcosa di familiare? Questo è importante. L'ansia di qualcosa di ostile. Quindi vedi, sei andato a entrare in mondi che non gestivi, capito? Ma guarda, io una volta mi sono detto... Cioè il Devo Gorgone, queste cose qua. Sì. Quindi una volta però mi sono detto, adesso provo, voglio andare a vedere dove si trova Dio. Non l'avessi mai fatto. Hai visto Dio? In senso che io ho tentato, ho cominciato a volare sempre più in alto, sempre più in alto, quindi mi sono trovato in mezzo a queste nuvole, ma a un certo punto... Vabbè, sei rimasto dentro l'atmosfera comunque, non sei uscito fuori. Sì, no, ma a un certo punto ho sentito che c'era un limite invalicabile, dove non mi era... permesso, diciamo, perché diciamo le paure sono aumentate. Quindi nello spazio, però non ci sei andato nello spazio, mi hai detto. Lo spazio sì, ma è un altro tipo di viaggio, cioè nel momento stesso in cui ho praticato ho cercato quell'esperienza, era un'esperienza a sé, perché cercavo un qualcosa. Lo spazio ci sono stato più volte ed è stato sempre tutte le volte. Cioè mezzo ai pianeti, così, le stelle, così. Sì, assolutamente, mi trovavo a navigare, a fluttuare in mezzo a questi pianeti bellissimi, fantastici, dove comunque in una tranquillità, in una pazzesca, veramente un'esperienza dove come Interstellar, quanto... stavi in mezzo proprio bravissimo. Ok, tu prendi tutti i film. E ma sei mai sceso su un pianeta, su un pianeta che non è la Terra? No, a dirti la verità, questo no, anche perché ti accontenti del fatto di essere lì in mezzo all'universo e vedere niente. La bellezza cosmica. Però ti ricordi l'altro ascoltatore, quello che ho incontrato nel treno l'altra volta, dice che era passato attraverso un buco nero. Evidentemente l'esperienza di si dice appunto viaggio astrale, alla fine di andare in mezzo agli astri, cose del genere, penso. Ma si intende viaggio astrale quando si entra in una dimensione onirica differente da quella che è la nostra realtà, quindi è un po' deriva dal corpo astrale, diciamo, no? Che io utilizzo il corpo astrale e non il corpo fisico per fare questi viaggi. Quindi viaggio astrale, secondo me, almeno non è tanto legato all'astro, quindi al pianeta, ma è qualcosa che è in una dimensione differente, che molte volte è stralucida, cioè lucido come ti sto parlando in questo momento. Io come facevo ad accorgermi quando stavo sognando la differenza tra un sogno e un viaggio astrale? Innanzitutto la lucidità con la quale riuscivo a ragionare, o riesco ancora quando capita a ragionare, ma il dettaglio era anche quando volevo finire l'esperienza e mi bastava chiudere fortemente i pugni e mi ritrovavo catapultato nel letto. Ma questa è la manovra di atterraggio, avevi messo questa punto. È la manovra di atterraggio, abbiamo parlato prima di quella di decollo, diciamo di decollo, e ora parliamo quella di atterraggio. In qualsiasi momento volevo rientrare, bastava che stringevo i pugni e tornavo, catapultavo, sì, mi sentivo sbattuto nel letto, nel mio corpo in un attimo, e mi svegliavo sempre, ed era sempre, e non perdevo la lucidità dal senti viaggio. L'ultima cosa, ma questo ti ha dato una maggiore serenità rispetto a quelle che sono le ossessioni tipiche di ogni essere umano, la fine, il trapasso, la morte, la sofferenza? Tu hai come lambito qualcosa che assomiglia un po' a quelle che sono le promesse di vita eterna, di sopravvivenza dopo la morte, quindi alla fine dovresti stare più sereno, no? Ma allora, innanzitutto bisogna capire, e la certezza non l'ho assolutamente, se una volta che muore il tuo cervello nel tuo, perché c'è sempre un legame tra corpo astrale e il corpo fisico. Finisce la benzina e non si va da nessuna parte. Bravo, è come se ci fosse una sorta di cordone ombelicale che unisce il corpo fisico da quello astrale. Infatti io quando voglio tornare torno sempre lì, torno sempre. Quindi è tutto nella nostra testa, cioè gli universi sono dentro la nostra testa, non fuori. Questo io, il sospetto è questo. Io credo proprio di sì, come a mio parere, se posso permettermi, un pensiero così, anche Dio è nella nostra testa. Cioè noi, allora, diciamo che noi abbiamo nella mente la memoria di tutto quello che è accaduto, probabilmente, o quello che accade, che accadrà. Ce l'abbiamo dentro come fosse un microchip con la memoria. Una volta però staccata la corrente si cancella la memoria, ecco, si resetta. Ma questo tutto. Guarda, questo non te lo so dire, no, la sensazione è quella che io posso vivere comunque senza il mio corpo fisico, perché l'ho provato. Beh, questo è già una bella tranquillità, devo dire. Uno risparmia tanto in palestra, in cremine, in massaggi, cioè uno risparmierebbe tantissimo. Sì. Poi il corpo astrale è sempre bellissimo, perché è luminoso e non ha rughe, quello assolutamente. Il problema è capire se durante il decesso del corpo fisico poi avviene anche un decesso, ma non credo, anche perché io credo che sia uno spreco. Anche cioè, perché non occupa spazio il corpo astrale, in teoria ce ne possono stare quanti uno vuole in giro, quindi se l'universo è veramente infinito hai voglia corpi astrali, siamo tutti, anche tutti quelli che sono deceduti in precedenza. Ma senti, guarda, il segnale che mi arriva è che la mia stazione è arrivata, quindi corpo fisico è costretto a scendere e cambiare treno. Ti auguro buon viaggio e ti auguro di tornare sempre al punto di partenza, per questo almeno rassicura. Ciao, alla prossima. Ve lo auguro, grazie. So beautiful on your dying face, gives a sense of urgency to our kiss. Even the flowers on parade fear soon their cameos will end. We are friends because we know how much it means. Sharing in the story, given the ending. Somewhere, someone now writes on. This edition's limited to when we touch. Let's keep in mind this flesh is wrong all the time. And when we make love, be advised, tomorrow we can both evaporize. If there's something you desire, confess it now while we're alive. In mind that there's a universe.